Sì. E dove andando la partita? Vabbè, guarda. Dai, ci sentiamo domani, questo me. Ciao qua. A domani, dai. Non ho capito. Ho detto, eventualmente ci sentiamo domani. Guarda pure la partita, non c'è problema. Sì, sono qua, se vuoi chiacchierare non c'è problema, basso alla televisione, sono qua. Anch'io lo sono accesa, non so, sentirai il commento, posso passare chiaramente, così posso solo guardare senza bisogno di sentire molto il commento. Per cui non c'è, lo sono rientrato adesso, ho accompagnato mia figlia. Non mi ero qua, in stanza. Stavo, ho messo lo squelch, infatti, ho detto, non si sa mai che chiami qualcuno, rispondo, mi sto guardando Sampdoria a Milan, e poi alle 8:30 c'è la Juventus, Bologna Juventus. Sì, infatti, io avevo visto anche la rinnovata con la ma con chi era? Non me la metto più, bisogna quello che anche il bambino. Lazio che ha perso 4-1. Novara che ha perso 4-1 con Lazio. Normale, Novara. La squadra di Serie B, cos'è? Serie B. Sì. Però il Milan, il guaino tu che di palla, non gliene danno palla, ma è meglio che se ne vada al Chelsea che... Sì, ma sicuramente se ne andrà, guarda, io sono convinto che adesso magari farà la Supercoppa e poi se ne va, di sicuro, guarda, quello decide di andarsene, no? No, non c'è di meglio, con Milan non c'è la squadra adatta per lui, dai. Infatti è proprio quello, non c'è la squadra adatta per poter dare palle gol, non va nulla. La Juma segna la Sampdoria, mica? Sì, l'ho vista con l'azione, vabbè, in queste azioni così già ne vediamo tante, per cui comunque c'è per l'attacco la Sampdoria. Sì, non ripeto, adesso io sto dando un'occhiata a quel tavolo, l'accidente di Giamma, vediamo un po' che tipo di elemento è. Bisogna vedere adesso come si inserisce e vedere un po' cosa succede dopo, che non è che è facile. Ammonito per proteste, ci fate una ammonita fa fesseria. Infatti tutto per fesserie, veramente non è possibile, c'è la di mentalità che hanno, che poi è anche lontano, non c'era bisogno di fare nessun fallo di acquagliare la bruttitene. Perché poi rischi come è già successo altre volte che ti buttano fuori anche per proteste, come ti ha fatto Koulibaly, ha applaudito l'arbitro, sono cose che non vanno bene. E così vuoi ti dica, non so, comunque non è facile il campionato tosto, lo vediamo. E chi esce da qua gioca con la Vicente Napoli? No, questa è un'altra squadra qui, questa è eliminazione, infatti, questa è una partita di eliminazione, al momento, adesso vediamo, forse comunque è quella che più ci interessa. Vabbè, vuole vincere, Bologna vuole vincere, tutti vogliono vincere di un diavese, però non credo che possa vincere con la Juve, ma non è mai detto, non è mai detto l'ultima parola, tre volte non si sa mai, solo io. E visto che ha vinto nel primo tempo ne ha fatto 4 a Novara, poi ha calato, o se sono voluti calare loro, questo non lo so, c'è stato il rigore e hanno avuto anche un altro paio di azioni pericolosissime nel Novara, che per un soffio non è riuscito a buttarla dentro, ma comunque non si sa mai, dai. Io però Novara è inferiore alla Lazio, ma anche ci siano molti dubbi, però Sampdoria Milan non c'è nessuna inferiorità, sono tutte e due gran belle squadre, grandi giocatori, perciò da vedere. Ma e l'altra mi pare che sia Napoli, vincente contro di queste, giocherà sicuramente contro il Napoli. L'altra squadra che gioca con Napoli non me la ricordo, però sicuramente il Napoli che passa il turno. Sì, perché mi sembra che sia una squadra di Serie C addirittura quella che è incontro il Napoli. Se ricordo bene era una squadra di Serie C, per cui non ci sono. Ah, visto, a proposito, no, il Milano non ha messo il portiere titolare, ha messo il vecchietto. Sì, ma è un mezzo turnover anche questa, anche la Sampdoria. Sono tutte in turnover perché sono impegnate, quelle che praticamente sono impegnate in Europa League, in Champions, in campionato adesso, il 20 mi sembra inizia il campionato, quindi perlomeno i migliori giocatori, quelli a maggior rendimento stanno riposando, e che Higuain rendimento non è vende, quindi defende Yuga. Ma è anche giusto, dai. È anche giusto che sia così, perché se no come fai? Cosa le fai? Se i giocatori non li puoi tenere sempre a riposo, no? È meglio farli stare sempre con la mente pronta ad inserirsi, perché non si sa mai. Può capitare, la bella di Abetite, Higuain, capace, dai, non è possibile. Ha ragione comunque, Higuain ha ragione per conto mio, dai, a parte il fatto che l'hanno criticato, ma dimmi tu se un direttore sportivo come Leonardo deve andare a criticare a Higuain, che poi tra l'altro Higuain è stato il più bravo Ledo, perché sicuramente io me lo ricordo come giocava Leonardo, ma non c'è paragone, Higuain è sicuramente il più bravo. C'è la faccia triste, non è una faccia da giocatore bello allegro, spavaldo, ha una faccia molto triste, cioè a lui già il cambio, andare al Milan non è che gli è piaciuto molto, però le decisioni sono queste purtroppo, ma non è un giocatore che può stare al Milan, è un grande giocatore, non lo posso criticare, perché con la Juve ha dato tanto, col Napoli non li fa vedemo, infatti lo vuole di nuovo Sarri, e lui con Sarri può vabbè, da Reina, da Sebarada a 30, quanti anni va? Tante buffone a Reina, però può andare avanti, può terminare la carriera con molta tranquillità, cioè con più cosa, con più voglia di giocare. Ma Romina non ha gana proprio di giocare. Ah, la squadra fatta così, non è nemmeno colpa dell'allenatore, perché l'allenatore è anche in gamba, è uno, anzi, diciamo che stanno dando qualcosina, è proprio l'effetto dell'allenatore che li tiene sempre pronti. Non c'è la squadra, è la formazione, che non c'è centrocampo, non c'è niente, dai, non ha un compagno di una spalla, guai, non c'è nulla, non c'è da fare. Ma ti rendi conto che la Samp sta giocando meglio del Milan in questo momento, anche quella parata che ha fatto da poco Reina, caspita, anche quello la devono cogliere la gommi, se arriva leggermente prima potrebbe essere una bella retta anche quella. E già davvero sta giocando meglio, però insomma Milan già ce li ha dei buoni giocatori che riescono a tenere il passo, si vedrà, cosa vuoi che ti dica? Beh, ci vai quindi fuori? Ho troppo freddo, beh. Ma ancora non si è deciso niente, ma non credo, però c'è una partita, magari ce la guardiamo qua, ce la guardiamo e così facciamo comune da qua. Anche mio fratello mi ha chiamato, se scendevo andavo a pizzetto, ma non mi si chiama manco, se me la baghi tu, ci scendo, cioè è troppo freddo, no? Sono 7:30, porto il cane, mi sistemo il cane, poi metto la tutina, Cenniamo e cenando mi guardo la partita. È troppo freddo, non fa. Sono uscito stamattina, però a fare delle commissioni importanti, però non farsela niente. A casa, è troppo freddo, c'è anche mia figlia. Ho detto papà, quando esci al lavoro, ma vengo a casa, da te. E ho detto va bene. Vieni qua, rimani qua che c'è più caldo. Ok, no, io l'ho accompagnata perché è andata a cantare, dai. Dunque, oggi ha tre ore di concerto al conservatorio, per cui l'ho dovuta accompagnare. Poi già rientra col fidanzato. Ma dalle 5 che sono uscito e sono tornato un momento fa. Hanno un concerto al conservatorio, dunque è lì. Vado con la macchina mia, poi pensavo che come poi il fidanzato a prendere, ma adesso siamo con due macchine, ma te ti accompagno io, non ci sono problemi, io ti accompagno e poi scendi con Pierluigi, capite? E io come fa a volte mia figlia, no, oggi si è preso la macchina, esce alle 9, niente, non si vedono neanche, se ne dorme a casa, poi domani mattina se ne andrà a casa sua, però è troppo freddo. Non so più cosa decidere, se è meglio l'estate o l'inverno, perché l'inverno è tosto. Indubbiamente l'inverno si sa, è sempre da soffrire, non è che puoi stare così da qui a stupa, da stamattina, oggi l'abbiamo accesa la mattina proprio, per cui, ma quando sono uscito stamattina c'erano 2 gradi. È chiaro che cosa fai, non puoi tenere la casa chiusa, sì, va bene che sono uscito intorno alle 10, sì che ho cominciato a aprire le finestre dalle 8 più o meno, così è entrata un po' d'aria, poi ho chiuso, ho acceso la stufa e sono uscito, però alle 10 ancora qua in questa zona a 2 gradi, pensa che nel terrazzo che c'è di fronte, che c'è un terrazzo e si vedono, alle volte ci sono delle piccole pozzanghere, esatto, che non si sommettevo, era terrazzo, ed era ghiacciato, c'era tutto, si vedeva l'acqua ghiacciata, ghiaccio, nonostante che non ha piovuto così tanto, eppure c'era l'acqua che era diventata ghiaccio. E lo stesso anch'io, visto che c'erano 3 gradi stamattina, non ho lasciato aperto dalle 9 fino all'11, era tutto in bambarriato, tutto aperto, per terra, facendo. Infatti io sono uscito a fare le commissioni, sono rientrato, era un freddo. Allora venite a chiudere tutto per favore, se no mi gioca a Nendi. Troppo freddo c'è, pure le 2. C'è il riscaldamento, no? C'è il tema. La caldaia. Sino alle 10 e mezza mi pare le manacese, alle 2 alle 10 e mezza, infatti c'è un bel calduccio, ci sono, e 21 gradi ci sono dentro, alla grande. Ok, certo, io non ce l'ho qua il termometro della temperatura interna, non ce l'ho, ma quando esco, guarda, innanzitutto il telefonino, poi me lo segna la macchina anche, per cui, e anche poco fa, sono tornato con la macchina, mi sembra che gli abbia visto 6 gradi, una cosa del genere, 6-7 gradi, non di più, dunque già si sente la voglia, c'è il freddo, altro che. Stamattina era tutto ghiacciato, secondo me qua nella parte alta, poi ho visto che nel vetro della macchina, no, che ce n'era molto, però nell'erba era tutto ghiacciato. Sì, certo, ma il mio amico che abita via la cosa, come si chiama, a Santo Solo 2, mi ha detto, dice, stamattina ho dovuto prendere l'altra macchina perché nella mia macchina c'era il ghiaccio sul vetro, non c'avevo niente per poterlo raschiare dal vetro, e allora dice, ho preso la panna, la macchina della figlia, ha preso, e salito, ci abbiamo preso il caffè insieme, eccetera. Per dire no, perché come mai nella panna, boh, non lo so. Ma guarda che probabilmente nella panna c'è stato fatto qualche prodotto che non si ghiaccia l'umidità della notte sul vetro, o perlomeno era una posizione dove il vetro non era colpito così molto dall'umidità, sarà stato per quello, non lo so. Io so comunque che vendono un prodotto che lo stucci sul vetro e non si ghiaccia durante la notte. Sì, quello spruzzante gelo, sì. È più o meno come quello del radiatore che si mette d'inverno, no? Per non gelarsi l'acqua quando... Cioè, bisogna stare attenti, capito? Non bisogna mettere acqua d'inverno nel radiatore, bisogna mettere il liquido, e quel liquido è antigelo, perché può essere pericoloso. Se l'acqua è gelata, che non circola, e i tubi si praticamente... diventano ghiacciati e puoi fondere la macchina. Sì, infatti io uso quel liquido rossiccio là, il rosatello, io uso quello da sempre, non ho usato altro tipo di cose, anzi diciamo che ho sempre la scorta, ogni tanto lo faccio usare a bocco quando è necessario, sia per la macchina mia che per la macchina di mia figlia, per cui è così anche lui ho sempre a disposizione, non so mai, perché ormai con la macchina di mia figlia, essendo una macchina che ha ormai 11 anni, è a ormai 160-170 mila chilometri, ogni tanto un rabocco ce ne vuole, a differenza della mia, non consuma un goccio d'olio e nemmeno un goccio d'acqua, c'è un goccio di liquido, dai, diciamo. Assolutamente, vabbè, la mia non ha nemmeno 40.000 chilometri, per cui la macchina è ancora, si può dire, ancora a coraggio. Sì, ma quando i motori sono tenuti bene, la mia guarda ne ha più di 200.000, oppure siccome c'è l'indicatore dell'olio, è tutta elettronica, io quando giro il quadro ti indica l'olio sempre al massimo, lo controllo perché non si sa mai, ma ora sì che sia sballato il misuratore, invece no, la sondina, no? Perché c'ha, nella stina dell'olio c'è una sondina che indica elettronicamente sul display d'olio, livello dell'olio, è sempre al massimo, sempre, e poi c'è 200.000 km, acqua lo stesso non ne consuma, liquido radiatore non ne consuma, è perfetta, se tu la tiri bene, torniamo sempre al discorso di prima, non c'entra affatto, se tu sei ordinato con le tue cose, ti durano, se sei un bucaccioni, ti rampi tutto. Sì, ma è così, in effetti è così, è vero, basta questa coca di terra, vabbè. Stai cominciando a prendere le prime colpe in Italia, non è come in Brasile, no, lui è brasiliano, e stai cominciando a prendere le prime colpe, e lui ha, purtroppo è così qua. Sì, ma in effetti è vero, se la macchina tu la fai la manutenzione giusta, sempre, cambi olio, cambi tutto quello che ti dura una vita, può avere anche 300.000 km, il problema non te l'ha, perché è così. Ma io un giorno gli avevo detto al meccanico, ma dimmi una cosa, siccome mia figlia la usa molto lontano, anche tante volte, anche a Oriestano, anche a Caglia, dice tante volte, e dire, ma questa macchina, quella lì, ne vado la pena, nota mamma, o per comprare un'altra, ma ti ascolta, prima di nota mamma, questa tua è a me, te la compro io, ma detto, perché va benissimo la macchina, ma che tanto sai, cosa non significa proprio niente, il fatto che ha più di 150.000 km, assolutamente no, quando la macchina è messa a posto, guarda, è come la nuova. Interessante che fare sempre i tagliandi e fare le verifiche che si devono fare, per cui questo mi ha detto Franco, quello vicino a Walter. Franco è un bravo meccanico, perché a me mi ha fatto la stessa cosa, io da Franco non ci vado, vado da Walter, però Walter è anche già, li sai fatti suoi, un meccanico di vecchia generazione, mi ha detto tu ogni, anche se questa macchina, perché il mio monta quell'olio anche abbastanza costoso, monta Selenia, il 540, molto sintetico, e dice se tu l'olio, questa fa 20.000 km con l'olio, se tu lo cambi a 15.000 è meglio, non lasciare mai a consumarsi, a essere troppo colloso, ma lo cambia e basta, è così facile, a 15.000 km lo cambia sempre, olio, filtri, tutto, l'ho fatto fare da poco tagliando, la macchina respira bene, va bene. Ho finito, l'altro giorno c'era uno qua sotto casa, controllando l'olio, ho detto ma il filtro dell'aria mai l'ha controllato? No, ogni quanto si controlla, c'è il tappo, una macchina piccola, Italia. Io mio mio era Gneddu, ma cosa c'è di Gneddu? Gneddu bitico era, sai che i fritti sono gialli, no, arancioni, cosa? Era Gneddu bitico, puzzinoso, tutto pieno di paglia, di cose, c'è un attimo vergogna, ma come la macchina non sta respirando? Si è accorto a scembillare un motore, ah, ecco, ho fatto un filtro dell'aria, mettilo nuovo, questo, e se glielo soffio, ma soffia ti rigorre la giudizio, mettilo nuovo, era Gneddu bitico. La voglia poi fa niente, chiedo io, 7-8 ore lo rifiltro, non è possibile, dai. Sì, infatti l'unica deve essere sempre sul giallino, dai, sì, deve essere sempre chiaro. Quando comincia a diventare un po' nero, allora sai, deve cambiare. Sì, anche io uso quell'olio che dura per 20.000 km, certo. Anzi, ma adesso di più, ma adesso franco. Questo è un olio che ti fa 20.000 km, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Però, se tu in un anno non ripercorri 20.000 km, guarda che è sempre meglio ricambiarlo. Perché? Perché in un anno chiaramente l'olio, anche se non mi mai fatto lavorare molto, però un po' di viscosità la perde, per cui non è più quell'olio iniziale, e così mai sto franco. Io mi segno i guai, mi fatto prende passata la palla, mi fin di palo. No, ma questo era nero, c'era anche roba oleosa, quindi già si vede che la macchina sta soffrendo, il filtro del cuore, il filtro dell'aria è sporco, ti crea problemi la macchina, soprattutto il turbodiesel dovrà avere il filtro pulito sempre, bello, lucido, perché deve girare bene il motore. Ma chi c'era? Gneddu bitico, hai detto, non ti vergogni, vai a Città Mercato e comprati un filtro dell'aria nuovo, ha giudito, se no questa macchina ti lascia piedi a te, se vuoi la soffiare, no, vado al rifornitore, lo soffio, e soffia a Dio, gli si appoggio, ma un appunto, 1.3 multigetti, la razza di niente, fa desiderio, si cagano. Hai visto quel colpo di testa? Guarda, hai visto? È fulmine buttato. Vabbè, comunque, questa è l'occasione della coppa per il Milan, ma comunque è andata bene alla Sampdoria, ancora poteva essere come. Sì, ma è così, lo fanno a prendere male 7-8 euro, 10 euro di filtro, ma è così, non lo so. E anche quelli che mettono sempre l'olio, però non lo cambiano mai, e tutti la boccano sempre, però poi non la bocca un conto, perché quando l'olio è ancora buono, ma se tu l'olio lo fai diventare nero, lo fai una bocca. Stai lavorando sul studio in pratica, stai lavorando col catrame, per cui non va bene, dai. Ma infatti, queste cose che ti ho detto l'altro giorno sono importanti per la macchina. Questa pulizia totale, olio, filtri, tutte queste cose. E vedi che la macchina va bene, ma giusto, ma burro, da grande che ci prendi con la Sampdoria? Da molto, e non l'ha preparato il Cagliari, gli aveva preparato, l'avevo venduto il Cagliari. Non l'ho mai sentito, vabbè io vado di briglia, vado Milan, Inter, Juventus, le altre squadre, non è che mi interessa più di tanto. Beh, infatti, cioè, quei nomi noi li sappiamo perché sentiamo magari il Cagliari, sai, perché di Sardegna, però poi tutto sommato le altre squadre hanno fuori di quelle squadre maggiori, diciamo così, quelli chiamati, quelle squadre di alta classifica, le altre non è che le consideriamo molto, per cui non ci sfugge molto, dai, ci sfuggono molte cose, ma è così. Però, comportando bene con la Sampdoria, si sta comportando abbastanza bene, ma non da adesso, no, è a Puglia, già da tempo. Signore, il suo castiglietto è buono, No, io guardo Milan, Napoli, Inter, quelle vicino, sai, le prime quattro, sempre quattro, io gli altri, anche il Cagliari, sì, il Cagliari, lo seguo, anche se gioca con qualche squadretta, però... quello guardo, il campionato guardo sempre quello. Vabbè, sì, c'è un bel calduccio stasera a casa, come grazie a lì, però ho detto c'è chi ha aumentato la caldaia perché stava erogando poco, adesso l'ha aumentata, cioè i termosifoni stanno bollendo e qua in questa stanza ci sono 21 erano poco fa, tanto era, già 21,3, 21,2. Si alza a 22 gradi, il caso è ancora meglio. E vabbè. Mettersi a casa non va da nessuna parte, va. Infatti, si la conviene rimanere a casa, così almeno. E poi la partita ce la possiamo guardare tutti insieme qua noi, per cui è meglio rimanere qua. Tu pensa che mi sono anche abbassato la ceniera del maglione, me lo sono abbassato qualcuno perché me l'ha venne battito giù fugato. Comunque, va bene, già è meglio che ci sia a casa, vai, così almeno. Se c'è qualche inizio di influenza, a proposito, ti stai riprendendo, ti sei ripreso? Non sono ancora un po' così. Un po' la schiena mi fa male e c'ho sempre un po' di raucedine e soprattutto la testa dietro il collo mi fa male e poi me lo porto sotto gli occhi questo dolore un bel brutto. Stamattina mi ho preso un antinfiammatorio, adesso stasera sembra un po' meglio, però sono dovuto uscire stamattina per forza perché sono andato al tabacchino, diciamo, a pagare l'ultima ratta della cosa Tasi, che è la testa urbana. Poi c'era l'altro conto corrente della luce, un conto corrente di mia figlia, e quindi sono dovuto uscire, se no non sarei uscito, guarda, perché non c'era troppo freddo. Infatti ieri sera mi ha detto, me la prendo e poi me la accompagni, no, la tu a te di là la macchina, me la dai domenica, me la porti tu, sei attenta, no, non ho voluto, non sono manco andato a accompagnarlo, niente, se l'ha tenuta lui, ho detto se ti serve devi dire, tanto guarda io non sto uscendo, non mi serve, se devo uscire a fare qualche commissione, esco di mattina, intanto ho detto mia figlia, Ilaria c'ha i turni di pomeriggio, quindi la macchina è a disposizione di mattina, perciò proprio vanno i sci, vanno stanno andando e torrendo. Hai fatto bene, no? E poi se non ti sei preso bene ancora del tutto è meglio rimanere dietro la testa, quella è questione di cervicale, anche a me ogni tanto la cervicale già la sento.